L'articolo 28 è la norma che sta nello statuto dei lavoratori che da un lato appunto tutela la libertà e l'attività sindacale e sanziona i comportamenti ed è anche una norma di procedura, una norma sul processo, su un processo particolare ad hoc per quel tipo di comportamento del datore di lavoro. Quindi diciamo è la disposizione che nello statuto dei lavoratori e quindi assieme diciamo a quella legislazione che promuove la presenza del sindacato in azienda con molte norme, diritto di assemblea, il referendum, la fissione eccetera, poi inserisce questa disposizione per tutelare le interferenze e i comportamenti illegittimi da parte del datore di lavoro rispetto all'attività sindacale. C'è un motivo particolare per cui avete deciso di ripercorrere la giurisprudenza su questo preciso articolo? Beh sì, perché questo articolo è servito e serve, e confidiamo che possa servire anche in futuro, a supportare l'azione sindacale soprattutto nei momenti in cui l'azione sindacale incontra delle difficoltà oggettive, soprattutto nelle crisi aziendali. In questo libro sono riportati diversi provvedimenti assunti dai giudici. Questi diversi provvedimenti mostrano la diversa funzione che può svolgere un ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. In una prima stagione è stato utilizzato questo ricorso per far rispettare i diritti sindacali in azienda, datori di lavoro che non rispettano i diritti sindacali dei sindacati, che ostacolano l'attività sindacale. È stato fondamentale per dare effettività allo Statuto dei lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori è diventato una legge applicata nelle aziende perché quando veniva disapplicato intervenivano i ricorsi con articolo 28. In una fase successiva, negli anni 90 in particolare, l'articolo 28 si è iniziato ad utilizzare in un altro modo, per fare altro. È diventato uno strumento in mano al sindacato per intervenire efficacemente nella gestione delle crisi aziendali. Di fronte alle procedure di licenziamento collettivo, al processo di deindustrializzazione che ha colpito non solo Bologna, tutto il paese, ma Bologna sono stati 10 anni impegnativi, tutte le aziende della cintura dei viali hanno chiuso progressivamente. Quella stagione lì in molti casi è stata gestita con efficacia sul piano delle ricadute sociali, degli accordi che sono stati fatti dal sindacato, proprio perché ha messo in campo il ricorso ex articolo 28 per stoppare le iniziative brutali unilaterali dell'azienda. Da ultimo, in tempi più recenti, l'articolo 28, e siamo diciamo alla cronaca non più alla storia, viene utilizzato, è stato utilizzato efficacemente per contrastare i processi di delocalizzazione, GKN e gli altri casi. Anche lì sono stati bloccati quei processi unilaterali e brutali, non motivati in questo caso neanche da crisi aziendale, ma da scelte fatte da multinazionali che non tengono conto delle condizioni reali neanche dei territori delle aziende. Ecco, i ricorsi ex articolo 28 sono serviti a bloccare quelle operazioni, a rimettere in campo il confronto con il sindacato per cercare poi soluzioni condivise. Quindi uno strumento fondamentale per dare ossigeno e forza all'azione sindacale in momenti in cui senza un intervento anche del giudice il sindacato stenterebbe a ottenere i risultati. Nel libro ci sono diversi casi specifici. Sì. Vi chiederei se è possibile di raccontarmene uno. Beh, il primo caso che esaminiamo, che è sintomatico però di come viene utilizzato l'articolo 28, si apre una procedura di trasferimento collettivo, quindi un'azienda che deve essere trasferita a un acquirente, quindi cambia padrone sostanzialmente, comunica al sindacato questa intenzione e comunica anche le condizioni di questo trasferimento. Si apre una trattativa come prevede la legge, alla fine si fa un accordo e i lavoratori vengono trasferiti presso il nuovo datore di lavoro alle condizioni previste. Tra le condizioni previste, questi lavoratori si vedevano applicato il contratto collettivo dei metalmeccanici. Avviene il trasferimento e dopo un po' di tempo l'acquirente decide di applicare il contratto collettivo del commercio, che all'epoca era sicuramente meno tutelante rispetto a quello dei metalmeccanici. Cosa fa il sindacato in questo caso? Ricorre al giudice con l'articolo 28 per far sanzionare questa violazione di un impegno che era stato assunto nella fase del confronto, perché il sindacato in qualche modo, al di là delle condizioni dei singoli lavoratori, qui entra in gioco la credibilità del sindacato, che aveva creduto, aveva dato fiducia a questo impegno e quindi aveva accompagnato questo passaggio dei lavoratori. Il giudice attende certa che c'è una violazione di questo impegno e quindi dichiara il comportamento antisindacale. E in questi casi il giudice, quando accetta un comportamento antisindacale, nel provvedimento che emette rimuove gli effetti, cioè ripristina la situazione precedente. Se ci sono dei licenziamenti, annulla i licenziamenti, ordina la reintegra. Se c'è una violazione di un impegno, come in questo caso, impone alla società di rispettare l'impegno e quindi applicare quel contratto. Nella maggior parte dei casi il 28 serve a, diciamo, rimettere al centro l'azione e il confronto corretto e leale con il sindacato. Un'ultima domanda, siamo qui a Casa Rider e il sindacalismo dei ciclofattorini è stato al centro di diverse vicende dal 2016 più o meno, e c'è stata una sentenza proprio sulla condotta antisindacale delle grandi aziende tecnologiche multinazionali. La vicenda dei rider effettivamente occupa, diciamo, una sezione del libro, perché ci sono stati una serie di ricorsi anche a Bologna per condotta antisindacale nei confronti, in quel caso, di Deliveroo, diciamo, in cui effettivamente l'articolo 28, per così dire, ha un po' dimostrato la sua vitalità, nel senso che in quella vicenda, nella vicenda collettiva, si sono poste delle questioni processuali ma anche di diritto, diciamo, sostanziali, molto rilevanti. Prima tra tutte la qualificazione dei rapporti, nel senso che l'articolo 28 sanziona le condotte poste in essere dal datore di lavoro e nasce come una norma pensata, no, individuando il datore di lavoro come quello datore di lavoro del lavoratore subordinato. Quindi la prima questione molto rilevante che si è posta in quei giudizi, se nell'ambito dell'articolo 28 potesse rientrare anche un committente in questo caso, posto che la qualificazione di quei rapporti di lavoro per i giudici, quanto meno sicuramente per i giudici bolognesi, era di rapporti di collaborazione interorganizzati. I giudici hanno detto che ci poteva rientrare, quindi che i lavoratori avevano diritto alle tutele poiché qualificati come interorganizzati previsti dallo statuto dei lavoratori, ma anche che rientrava nella sfera di applicazione anche l'articolo 28. Questo è stato un passaggio molto rilevante di quel contenzioso e che dimostra anche come quella disposizione in realtà sia effettivamente vitale.